Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Riparte un anno in nostra compagnia, riparte anche un altro anno finanziario e l'avete sentito anche nel giornale radio, riparte in maniera molto complessa questa mattina perché abbiamo avuto tutta una serie di problematiche tecniche che, per la verità, a dirvela tutta, non siamo ancora riusciti a comprendere bene. Abbiamo interpellato anche funzionari della Borsa Italiana per chiedere che un esperto stamattina ci spiegasse effettivamente la natura tecnica della difficoltà di calcolare l'esatta variazione percentuale del FTSE MIB e quindi del principale paniere di Piazza Affari. Al momento non siamo riusciti ad essere accontentati perché, testuali parole, responsabile appunto della divisione che abbiamo interpellato per farci dare queste spiegazioni, testualmente mi ha detto: Deborah, io in questo momento prima devo risolvere il problema, dopodiché potrò essere in grado di fare un collegamento con voi e spiegarvi quello che è successo. Io tenterò di farlo appunto questa mattina, anche se il tema di approfondimento del nostro Salvadanaio oggi in qualche maniera era anche attinente ai disagi di oggi, perché di disagi ne abbiamo vissuti l'anno scorso ancora con le turbolenze che i mercati finanziari hanno vissuto, e oggi riparleremo proprio appunto di mercati finanziari. Come da tradizione, Salvadanaio dedica la prima puntata del nuovo anno a questo argomento. Sappiamo bene quanto sia diventato difficile da qualche tempo esprimere previsioni e commenti sulla situazione che stiamo vivendo, perché lo abbiamo appreso molto bene: la crisi che ci trasciniamo dal 2007 ci ha fatto conoscere aspetti ed effetti inattesi e prima di ora largamente sconosciuti, i mutui subprime da cui questa crisi ha originato, i derivati, il funzionamento della cosiddetta leva finanziaria, è beato che ancora lo ha capito, la crisi dei debiti sovrani che ci ha travolto negli ultimi mesi, i titoli di Stato che non proteggono più il nostro risparmio, le valute che viaggiano sulle montagne russe, anche quelle considerate più solide, le materie prime che sono volate su quotazioni record, e chissà se c'è ancora dell'altro che dobbiamo scoprire. Di fatto il 2010 è stato archiviato con soddisfazione da chi lo scorso anno ha puntato sulla borsa, sul mercato azionario. Soddisfazione che prosegue se si considera che stamattina le borse europee hanno riaperto in territorio positivo la prima seduta del 2011. Vi dico subito quello che sta accadendo, così ci togliamo questo sassolino dal piede. Parigi segna un più 2,21%, Francoforte segna un più 1,54%, l'indice belga, diamo anche i più piccolini, più 1,83%, in Olanda più 1,59%, Londra è chiusa per festività e abbiamo insomma questo dilemma di Piazza Affari che, almeno a giudicare dalla piattaforma che io ho a disposizione, segna adesso meno 0,25%, ma l'indice che aveva ricominciato ad essere ricalcolato dall'11,18 ha ancora una variazione appunto errata. In realtà, secondo i calcoli che abbiamo fatto con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, peraltro ringrazio stamattina Livia Zancaner che ho disturbato più spesso nel corso della mattinata, dovrebbe segnare anche Milano un rialzo del 2,39%. Cosa è successo stamattina a Piazza Affari? Che sono state scisse le azioni Fiat. Come sapete ce ne sono di due tipi adesso quotate a Milano, la Fiat SPA e le Fiat Industrial, che è la società nata dallo spin-off delle attività non auto del gruppo Dell'Ingotto, e per praticamente ricalcolare sulla base di questi nuovi ingressi tutto l'indice, in sostanza questo è l'effetto che vediamo. È stato effettuato il cosiddetto intervento sul divisor. Io non mi metterei a spiegarvi che cosa significa, di fatto è una questione di natura puramente tecnica che in questo momento appunto sta avendo questo effetto a Milano, e quindi anche Milano è in rialzo di oltre 2 punti, non lo vedo sulla mia piattaforma, probabilmente perché anche a disposizione altra strumentazione tecnologica che magari stamattina sta facendo trading potrebbe avere lo stesso problema, ma io a giudicare dai 40 titoli del paniere che sono tutti molto positivi, le banche stanno volando di oltre 3 punti e gli unici 2 titoli negativi sono proprio i 2 titoli Dell'Ingotto, Fiat e Fiat Industrial, questo appunto è quello che posso dirvi. L'indice è positivo, ma probabilmente in molti non possono ancora vederlo. Comunque Borsa Italiana da stamattina sta lavorando con appunto la collaborazione ovviamente stretta e attiva dei colleghi di Londra per ripristinare la situazione e risolvere il problema. Dicevamo dell'esordio dei 2 titoli Fiat, parliamo anche un attimo di questi. Poi vi presento gli ospiti che ci accompagneranno per la trasmissione oggi. Fiat SPA segna 6,99 euro, Fiat Industrial 8,82 euro. Anche in questo caso non abbiamo la variazione percentuale dei due titoli, perché Borsa Italiana dice che non li farà conoscere, non li diffonderà prima della chiusura della giornata. Al momento quindi possiamo solo stabilire sulla base dei prezzi d'esordio quella che ipoteticamente è la variazione percentuale di questo momento. Anche in questo caso abbiamo un calo e un rosso appunto per entrambi i titoli. In certi momenti Fiat Industrial ha raggiunto anche un calo di circa il 2,3%. Se l'anno parte così, diciamo che abbiamo di che divertirci nel corso di tutto il 2011. Allora saluto intanto gli ospiti che ci faranno compagnia questa mattina, con i quali appunto cercheremo di, se possibile, formulare qualche previsione sull'andamento dei mercati, anche sulla base delle previsioni che erano state fatte un anno fa. Quanti e come ci hanno azzeccato, avevano visto giusto, insomma, avevano individuato, intercettato la possibile travolgente crisi degli stati sovrani europei quest'anno, hanno previsto appunto che per esempio l'euro sarebbe scivolato ai minimi da 4 anni, sarebbe finito in una crisi così forte come quella che ha vissuto negli ultimi mesi, e tutti gli altri temi che abbiamo largamente commentato nel 2010, insomma, quanto e come erano stati previsti. Io ringrazio e saluto stamattina di essere con noi, iniziano l'anno con noi, per cui li ringraziamo doppiamente, perché praticamente tutti e tre li ho disturbati in vacanza. Sara Silano, caporedattore di Morningstar. Sara, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Morningstar, io per chi non la conoscesse lo ricordo, è una società di analisi finanziaria indipendente, attribuisce soprattutto rating a fondi comuni di investimento, è la più grande società al mondo appunto accreditata in questo settore. Raimondo Marcialis, direttore generale MC Gestioni. Marcialis, buongiorno e grazie, buon anno. Buongiorno e buon anno a tutti. Che bella mattinata, stamattina. No, tra l'altro lei è tornato in ufficio, uno dei pochi. Insomma, abbiamo visto una mattinata partita in maniera davvero all'insegna della fibrillazione. E poi ringrazio e saluto Giovanni Pozzi, amministratore delegato di JV Partners, che è una società di ricerca e analisi indipendente specializzata nel mercato dei cambi. Pozzi, buongiorno e buon anno. Buongiorno, auguri anche a voi. Grazie. E allora, ovviamente, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, se ce ne vorrete fare, relativamente ai temi che vi incuriosiscono di più e quelli che potrebbero essere un po' l'oggetto del vostro interesse da qui alla fine dell'anno, se ancora state cercando di immaginare come poter collocare il vostro risparmio, se negli ultimi mesi lo avete tenuto ampiamente liquido come hanno fatto molte famiglie italiane, oppure se ci sono anche altri temi da appunto discutere con noi, chiamateci pure oppure scriveteci alle 349-238-6666. I primi messaggi che stanno arrivando sono molti messaggi relativi al caos di borsa di questa mattina, qualcuno li considera un po' ridicoli, noi cercheremo appunto, se riusciremo a farlo magari stasera, a Focus Economia, a contattare appunto e ad interpellare, se avranno sbrigliato questa matassa, i tecnici di Borsa Italiana per farci appunto ben spiegare cosa è successo. Adesso invece nella nostra scheda il riepilogo di quello che sui mercati è successo nel 2010. Col brindisi della notte di San Silvestro, anche i mercati finanziari hanno dato l'addio ad un 2010 che lascia in eredità un limbo di incertezze. Dalla grande volatilità dei mercati all'otto volante delle valute e poi naturalmente le tensioni sui titoli di Stato. La nebbia si infittisce in particolar modo sul vecchio continente, che ha dovuto affrontare in primavera il crollo della Grecia e in autunno quello dell'Irlanda. Una crisi della finanza pubblica che ha messo ancor più in evidenza le differenze di velocità tra le economie dell'Unione. Se infatti a Berlino nel 2011 si potrebbe festeggiare il ritorno ai livelli pre-crisi, su Portogallo e Spagna, ma anche Belgio e Italia, i riflettori restano puntati con grande preoccupazione. Nell'anno che ha visto la Cina superare il Giappone per reddito nazionale, in cui è seconda solo agli Stati Uniti, l'euro è arrivato a toccare i minimi da 4 anni, condizionato da una vera e propria guerra mondiale delle valute. Come sempre in periodi di instabilità, poi, si è assistito a rialzi record per le materie prime. L'oro in 3 anni ha raddoppiato il suo valore e nel 2010 l'oncia è arrivata a superare i $1,400. Ma affari ancora più ricchi si sono fatti con l'argento, le cui quotazioni in 12 mesi sono salite di 70 punti percentuali. Il bilancio di borsa si chiude in positivo per Wall Street, più 17% il Nasdaq, più 10% il Dow Jones, mentre l'eurozona perde il 5% circa. Francoforte fa il più 16% circa, più 10% per Londra, mentre Parigi scende del 2% circa. Piazza Affari chiude con un meno 12%, un anno decisamente nero. Ma come sarà il 2011? La speranza è naturalmente quella che la congiuntura possa consolidarsi un po'. Vista la debolezza dei debiti sovrani, le azioni potrebbero andare meglio dei bond. In Europa ci si aspetta una crescita modesta, ma anche l'attuazione delle annunciate politiche restrittive, per non dire lacrime e sangue, in molti paesi. A risparmiatori e investitori non resta che mettersi in ricerca dei primi segnali e ipotizzare le strategie giuste e le mosse più sicure. È a saperle quelle che sono le mosse più sicure, insomma. Però, Sara Silano, comincio con te, perché con Sara ci siamo divertite a fare una cosa stamattina. Allora, Morningstar, lo ricordo, pubblica trimestralmente, se non sbaglio, questo report fra i gestori, Sara? Mensile. Ecco. Sì, è vero, hai ragione, mensile. Praticamente vengono interpellati un bel numero di gestori e professionisti della distribuzione e dell'asset allocation, della distribuzione del risparmio e dell'asset allocation, e mensilmente, appunto, così si cerca di capire quello che potrà accadere in un lasso di tempo abbastanza breve, no? Non si prendono delle posizioni a lunghissimo raggio, Sara. Noi chiediamo le previsioni per i prossimi 6 mesi, quindi ogni mese viene aggiornato la previsione sul semestre successivo. Allora, ovviamente c'è il report e il sondaggio effettuato anche a dicembre, e qui sono state dette evidentemente certe cose, però ho chiesto a Sara stamattina di ripescare il sondaggio fra i gestori fatto lo scorso gennaio, per così verificare se avessero azzeccato o meno le previsioni dei 6 mesi successivi. E così, a giudicare un po' dai punti principali toccati dal sondaggio del gennaio 2010, Sara, mi sembra che poi tutto sommato non sono state disattese le previsioni fatte, con l'unica eccezione che non hanno completamente vinto, appunto, i gestori che avete interpellato, la scommessa sulla borsa europea, perché in realtà, a parte la Germania, tutte le altre non sono andate particolarmente bene. Insomma, dove ci hanno preso e dove no, ce lo ricordiamo? Allora, innanzitutto diciamo di sì, che nel complesso le previsioni che avevano fatto all'inizio dell'anno sono state confermate. Infatti parlavano appunto di preoccupazioni sul debito pubblico di alcuni paesi, indicavano la Grecia in particolare, parlavano di preoccupazioni sulla disoccupazione, che è stato comunque un tema che ci ha accompagnato lungo tutto il 2010, e preoccupazioni sul mercato immobiliare spagnolo, e quindi anche per la situazione della Spagna. È vero, loro, i gestori un anno fa dicevano l'Europa sarà l'area che forse potrebbe dare i migliori risultati, e così non è stato, ma sicuramente hanno azzeccato, se vogliamo dire, o comunque previsto giusto sul fatto che le azioni avrebbero reso di più delle obbligazioni, diciamo dei titoli di Stato sicuramente. E poi un altro aspetto interessante è quello valutario. I gestori un anno fa si aspettavano che il 2010 sarebbe stato un anno di forti oscillazioni del rapporto di cambio tra euro-dollaro, e così è stato, e soprattutto avevano messo in luce il fatto che il biglietto verde avrebbe potuto apprezzarsi nei confronti dell'euro nei mesi successivi, nei successivi 6 mesi, e dei fatti così è stato. E quindi, insomma, anche perché siccome ci siamo divertiti molto negli ultimi anni a demonizzare tutti coloro che per lavoro fanno previsioni, così gli abbiamo un po' voluto anche restituire un minimo di reputazione, se qualcuno appunto gliele avesse fatta mancare. Sara, è difficile fare previsioni con uno scenario di questo tipo. A questo punto ti chiedo magari proprio i punti principali del nuovo sondaggio che è stato rieffettuato in dicembre, poi naturalmente poi lo metteremo alla prova dei fatti fra un anno magari, ma magari partiamo solo punto per punto con l'Europa, cioè lo esamineremo punto per punto nel corso della trasmissione, ma partiamo con quello che ci interessa di più, che adesso è la situazione europea. Esiste ancora rischio sovrano fra i gestori interpellati lo scorso mese? esiste ancora e sarà un tema secondo i gestori del 2011, almeno dei primi sei mesi del 2011. I gestori sono ottimisti sulle borse europee, cioè l'82% degli intervistati ha detto che secondo loro potrebbe crescere nei prossimi sei mesi, però attenzione a questo problema del debito sovrano. I gestori hanno visto il salvataggio dell'Irlanda in maniera contrastata. Per alcuni è stata una cosa positiva perché è ristrutturazione di uno stato debitorio e a differenza della Grecia che invece era stato più un risanamento dopo degli sperperi, però altri hanno messo in luce che questo piano potrebbe indurre gli stati in difficoltà a ritardare i provvedimenti che peraltro sono molto impopolari di taglio delle spese perché possono comunque contare su un aiuto esterno. Allora c'è questa preoccupazione che affidarsi, avere la sicurezza comunque di un aiuto esterno possa non portare a quelle riforme che sono ormai necessarie. Allora ci manca un minuto di tempo prima di andare con la prima pausa. Raimondo Marcialis, MC Gestioni, lei non è tra i gestori interpellati da Morningstar, però le chiedo se in 45 secondi riesce a dirci in totale onestà intellettuale nel 2010 che tipo di previsioni aveva fatto, che cosa aveva azzeccato, che cosa mancato completamente. Ma quello che diciamo avevo azzeccato erano delle buone possibilità di sviluppo per la borsa e invece una fase di difficoltà ma non grave per i mercati obbligazionari. Invece quello che non avevo valutato correttamente era il rischio sovrano dei paesi periferici europei, che è stato decisamente forte, con dei riflessi sui cambi che francamente non sono riuscito a cogliere appieno. Benissimo, grazie. Allora, poi sui cambi ci andremo anche con Giovanni Pozzi nella seconda parte della trasmissione. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. È già pronto Antoine da Pesaro, a tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina. Abbiamo intanto, prima di tutto, tenuto sotto stretta osservazione un po' quello che sta accadendo in borsa con il disagio che sta riguardando Piazza Affari, che ancora non riesce a calcolare correttamente il proprio indice principale, il FTSE MIB, che sulla mia piattaforma segna ancora un meno 0,25%, mentre invece dovrebbe muoversi in linea con le altre piazze europee aperte, Londra è chiusa per festività, e segnare un rialzo di oltre 2 punti percentuali. C'è l'esordio della scissione dei due titoli Fiat, le SPA sono a 6,96 euro, le Industrial a 8,87 euro dopo aver esordito ad un prezzo di 9 euro, quindi sono entrambi in flessione. Per Fiat si era sopra i 7 euro per le SPA. Invece noi cerchiamo di analizzare un po' lo scenario di mercato, quello che potrebbe essere il trend dei prossimi mesi, quali temi dovranno essere tenuti più sotto osservazione, anche per dare qualche indicazione di investimento a quelle famiglie che ancora stanno mantenendo il proprio portafoglio estremamente liquido. Allora, per dare il là a Giovanni Pozzi di GV Partners e quindi per parlare di mercato dei cambi, Pozzi, le faccio ascoltare subito una domanda di un ascoltatore che è Antoine da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno. E buon anno. Pronto? Pronto, buongiorno, dottor Pozzi. No, deve parlare con me, poi giro io la domanda. Benissimo, complimenti prima di tutto per la trasmissione che l'ascolto spesso con piacere dalla macchina. Ah, e non ho mai avuto il modo di chiamare, ma adesso visto che sono in vacanza, ero prima in macchina, dico bisogna che approfitto, faccio benissimo, una domanda. Benissimo, allora andiamo subito con la domanda, non indugiamo oltre. Benissimo. Sì, ce la allora, faccio Antoine, sì, cosa vuole sapere? Allora, la mia domanda è questa, per quello che riguarda il mercato dei cambi euro-dollaro, come vedono il trend nei prossimi giorni, ma anche nei prossimi mesi? E la debolezza anche del franco svizzero, mi interessa come mai, ecco, in questo periodo proprio particolare vediamo un franco svizzero scivolare ai minimi. Antoine, grazie e buona giornata. Pozzi, allora, cominciamo dal franco svizzero, ma non è diventato di nuovo il rifugio di tutti? Volentieri, sì. Antoine si è sicuramente confuso, per debolezza intendeva debolezza dell'euro contro il franco appunto svizzero. Perché in realtà lo sta schiacciando letteralmente, quindi tanto è vero che l'abbiamo di nuovo ribattezzato, insomma, il rifugio per eccellenza, un po' come l'oro, quando ci sono dei momenti di grave volatilità, di forte volatilità e di movimenti intensi, insomma, per proteggersi anche da situazioni incerte, effettivamente ci si rifugia in primo luogo nell'oro, poi nel franco svizzero. Effettivamente quello è successo dopo un periodo nel quale è stato meno gradito agli investitori internazionali. Quest'anno tra le valute maggiori ha beneficiato al pari di dollaro australiano e yen nei confronti di pressoché tutto il mondo, cioè uno dei grandi vincitori del 2010, e il breve periodo non ci segnala la possibilità che questo cambi. La Banca Nazionale Svizzera durante il 2010 ha tentato di intervenire per rallentare l'apprezzamento del franco, quando ci si trovava a livelli che ormai da qui sono molto distanti, cioè stiamo parlando dell'alta area 1,40 verso 1,50, dopodiché ha tirato il rim in barca e ha detto ok, abbiamo dato un segnale che non vogliamo che l'apprezzamento vada troppo veloce, mm-hmm. ma per ora lasciamo che sia il mercato a decidere nel livello. E la Svizzera non ha debito, direi che questa è la sostanza principale. Nella cosiddetta currency war, guerra tra valute, che non è poi una particolare guerra, una particolare novità, i grossi problemi del debito europeo, degli stati sovrani, di cui avrete sicuramente parlato in maniera estesa e con voci più competenti della mia, e comunque le paure sugli effetti di medio termine dell'esteso quantitative easing negli Stati Uniti hanno fatto sì che i flussi si riversassero da qualche altra parte. Certo. La sterlina tra le cinque maggiori valute non era un beneficiario ideale perché sostanzialmente gli stessi problemi negli Stati Uniti, lo yen e il franco invece lo sono stati. Quindi questa è la risposta per il motivo per cui si aggiunge al fatto che il franco ha sempre avuto questo ruolo di cassaforte, per cui l'investitore senza troppo pensarci dice ma mettiamone lì un po', questo vale a livello privato e a livello di stati mm-hmm. sovrani e grossi fondi pensione. Una curiosità, parlando con un funzionario di una banca russa ormai un anno e mezzo or sono, quando ancora si era nel pieno del tremore della crisi, raccontò come in Russia si stavano acquistando franchi svizzeri in banconote con addirittura dei camioncini che arrivavano per consegnarle alle banche, perché c'era la gente che se li comprava e nemmeno li lasciava in banca. Immaginiamo anche che flussi, infatti. E come mai non l'euro? Tutti gli chiesero e lui disse ma perché l'euro non lo vediamo stabile. Puntualmente le loro previsioni russe, la esatto, Cassandra russa. A proposito di previsioni azzeccate, questa persona sicuramente aveva dato il polso di una situazione estremamente importante. Allora, ci dica invece adesso, visto che ad Antoine interessava anche il rapporto di cambio fra euro-dollaro, che in queste giornate natalizie mi è sembrato abbastanza stabile, intorno a questa soglia che vedo anche stamattina, 1,33, ma per la prima volta nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, dopo 8 anni, qualcuno ha pensato e temuto che l'euro potesse collassare, prima con la crisi greca, poi con quella ben più dirompente della crisi irlandese, appunto. Ovviamente non abbiamo ancora scongiurato il pericolo che adesso questo pacchetto di aiuti finanziari che è stato predisposto da Fondo Monetario e Unione Europea possa essere, debba essere messo a disposizione anche del Portogallo e chissà anche della Spagna. Tutto questo, insomma, come inciderà nelle quotazioni tra la moneta unica europea e il dollaro nei prossimi mesi secondo le sue previsioni? Pozzi, sì. Un commento fondamentale in risposta a quello che mi ha detto ora e poi uno brevissimo tecnico, più di breve termine. La domanda euro-dollaro dove andrà è la domanda più difficile che si può porre nel nostro mercato in questo momento e lo è stato per gli ultimi mesi, perché è un rapporto di cambio tra due aree che hanno evidenti limiti fondamentali macro. Si tratta quasi di tirare una moneta, alcuni dicono testa, alcuni dicono croce, siamo esattamente in questa situazione. Abbiamo gli analisti delle grosse banche che ci vengono a parlare delle loro teorie macro e le previsioni valutarie per il futuro, lasciano l'euro-dollaro in una categoria a sé stante, dicendo è assolutamente su una bilancia, in ogni momento è quello che è successo anche nel 2010, anche se poi è sceso, ma nei vari frangenti, vuoi quando era accelerata l'intensità del quantitative easing negli Stati Uniti, è ritornato a essere forte l'euro, o meglio, debole il dollaro. Quella delle due valute che ha gli occhi addosso per la sua debolezza sarà quella più penalizzata. In questi giorni si è apprezzato, ha chiuso l'anno a 1,33,20 oggi, dopo essere stato un pochino sotto verso l'1,30. Dal punto di vista tecnico siamo in un largo range di circa 5 figure, tra 1,28,5 e 1,34,5, sino a che non uscirà da questo range, che si è un po' creato proprio per questa incertezza e per il fatto che sul fine anno tutti hanno tirato i remi in barca e nessuno ha avuto la voglia di spingerlo di fuori di questo range, stiamo parlando dei fondi speculatori, non ci sentiamo di fare previsioni. Riteniamo che sia tuttora possibile sia che si ritorni sotto l'1,20, Sì, anche se ritorni su verso 1,40. Come il range di prezzo che avevano dato le banche d'affari su Fiat SPA, Fiat Industrial, con la nuova quotazione oggi, dei range ampissimi, quindi chiaramente questo proprio per dimostrare che fare delle previsioni è assolutamente diventato impossibile, anche per voi che siete professionisti di questo. Noi lo definiamo spesso un'attività un po' da bar, nel senso è più divertente che utile, l'importante è la reattività dopo agli scenari. No, dopo che io ho voluto ridare insomma ampia solidità alla reputazione degli analisti, non mi dica così che fate addirittura un'attività da bar, Pozzi, perché poi gli ascoltatori mi dicono: ma insomma, ma che cosa li interpellate a fare? Ma questo è per testimoniare la difficoltà che è stata esacerbata sicuramente dalla crisi degli ultimi 4 anni, inedita per molti aspetti, credo, Pozzi. Assolutamente sì. Sì, sicuramente è uno scenario unico. Sul mercato dei cambi siamo abituati a dire che non c'è niente mai di nuovo. Effettivamente, da un punto di vista volatilità specifica delle valute, non abbiamo visto niente di particolare, né durante il 2008 né dopo. Ogni volta è una storia nuova, ma anche una storia che si ripete. Per cui, però, guardando al resto dei mercati, sicuramente nel 2010 un tema grosso è stato quello del tema macro, è stato lo stesso discorso tra operatori di mercato dei cambi, cioè tra noi e i nostri colleghi sull'equity, sul fixed income. Un'altra particolarità: i cambi sono stati usati molto come dicono gli inglesi proxy, cioè come sostituto. Mercato molto liquido che si pensava avrebbe ricalcato con una grande correlazione gli scenari di rischio sì, rischio no, quindi borsa su, borsa giù. Questo è successo, ma quello che ha sorpreso è che non è successo sull'euro-dollaro per tutto il 2010 come era accaduto nel 2008-2009, cioè euro-dollaro giù perché le borse scendevano e viceversa. È successo tra le valute in crisi dei mercati sviluppati, cioè euro e dollaro, e le valute del resto del mondo, ovviamente in prima fila le valute con tassi alti e una buona economia. Ecco, tra l'altro ne parleremo dopo delle valute con i tassi alti e anche di quelle zone geografiche dove è possibile che a causa di questo appunto si stia annidando una possibile bolla. Ci andiamo. E allora però, mentre molto scherzosamente ovviamente Pozzi la chiamava un'attività da bar, c'è chi nel suo bar deve comprare, guardare i mercati, acquistare appunto società e quindi puntare concretamente magari il denaro di qualcun altro per farlo rendere nei prossimi mesi. Raimondo Marcialis, torno da lei. Allora, lei ci ha detto appunto e ha messo molto candidamente nella prima parte della trasmissione quali erano le previsioni che aveva fatto un anno fa e dove ovviamente, perché è successo a molti, ha sbagliato a prendere delle posizioni. L'esplosione della crisi degli stati sovrani europea appunto l'ha messa un po' in difficoltà, anche perché forse effettivamente era un po' difficile, ma forse non tanto, prevedere quella irlandese, quella greca, insomma è scaturita, come ci diceva prima Sara Silano, da un comportamento di una nazione non proprio corretto che ha truccato i conti. Per l'Irlanda invece è stata messa in ginocchio dalla crisi del sistema bancario. La Spagna sarà messa in crisi dalla situazione del mercato immobiliare, per il Portogallo altre questioni ancora. Detto questo, in questo mare molto complicato in cui nuotare, Marcialis, quali sono le posizioni che sta prendendo, così magari cerchiamo anche di dare qualche orientamento utile agli ascoltatori che stanno cercando di capire se è il momento di cominciare ad intercettare qualche occasione di investimento? Ma Deborah, intanto, se me lo permette, vorrei fare una battuta che non è mia ma di un grande fisico, Bohr, no? Che diceva: fare previsioni è molto rischioso, soprattutto sul futuro, no? Ecco, in realtà questo discorso delle previsioni, è vero che si fanno delle previsioni, è vero che si assumono delle scommesse, però normalmente i professionisti tendono più che altro a lavorare per scenari, si ipotizzano degli scenari per capire se poi i percorsi che si stanno seguendo sono corretti o meno, ancor più che parlare di previsioni. Però è anche vero che una componente di previsioni noi dobbiamo necessariamente darla, quindi un quadro di base dobbiamo averlo, no? Cioè, il quadro di base dice che le economie stanno migliorando, il quadro di base dice che le aziende hanno reagito complessivamente bene, il quadro dice anche che la difficoltà ad avere del credito è aumentata in un modo molto serio e molto ma molto importante. Infatti nel nostro vissuto quotidiano in realtà ci rendiamo conto che la crisi non è del tutto passata. Però è vero che le aziende, quelle particolarmente forti, con dei grandi brand, quelle che hanno delle grandi liquidità, quelle che hanno la capacità soprattutto di generare dei grandi flussi di liquidità e quindi hanno meno bisogno del sistema finanziario, hanno decisamente sovraperformato gli altri titoli sul mercato, perché sono ritenuti molto più sicuri nel caso che si ricaschi in una crisi e soprattutto ci sia la difficoltà ad avere dei finanziamenti. Ecco, questo è un trend che abbiamo visto lo scorso anno e secondo me in gran parte continuerà anche nel futuro. È chiaro che se noi vogliamo investire con una certa, diciamo così, sicurezza oggi, andiamo molto più facilmente a investire in Germania, no? Che ha una situazione industriale, politica e soprattutto dei conti pubblici che è assolutamente più serena rispetto agli altri paesi. Se invece vogliamo fare delle scommesse, tra virgolette, possiamo provare a scommettere sul recupero di quei paesi che invece sono entrati in difficoltà, anche se a mio parere sotto questo profilo bisogna stare attenti ai possibili rimbalzi, perché in realtà noi riteniamo che questi maggiori tassi di interesse, questi spread, non siano un fenomeno episodico destinato a rimanere fermo. Nel prossimo futuro, a nostro parere, i paesi periferici continueranno a pagare spread, tassi di interesse più alti rispetto agli altri paesi. Rispetto al Bund in particolar modo, che insomma questo nostro parametro della citata Germania di cui parlavamo poco fa. Allora, ci dobbiamo fermare solo per un minuto perché abbiamo adesso i suggerimenti per chi è in viaggio. Vi do intanto quest'altra buona notizia. Cominciamo bene l'anno, già abbiamo sentito nel giornale radio di come stanno andando i prezzi dei carburanti. Sappiate che è schizzato ai massimi da 27 mesi a questa parte il petrolio sul mercato elettronico di New York. Il greggio, con consegne a febbraio, è salito a $92.10 al barile, la quotazione più alta dal 7 ottobre del 2008. Anche questo scenario già visto. Il petrolio in piena crisi è arrivato a $147 al barile, speriamo di non replicarlo. Di sicuro la benzina replica seduta stante queste quotazioni. A tra poco. Tra l'altro ci piace anche qualche volta avere qualche voce controcorrente rispetto alle previsioni generali. E allora perché ho fatto questa introduzione? Perché Sara Silano, parlato prima del petrolio, dei valori a cui è schizzato l'oro lo scorso anno, ma credo che tra gli analisti di Morningstar qualcuno la veda in maniera un po' in controtendenza, no? Sull'andamento dei prezzi delle materie prime. Diciamo che l'oro sicuramente è stato uno dei migliori investimenti negli ultimi 25 anni, quindi un orizzonte di tempo molto lungo. Ha sicuramente impreziosito i portafogli di molti gestori, di chi ha puntato su questa risorsa. Quello che i nostri analisti mettono in luce ora è l'aspetto più finanziario dell'investimento in oro. Molti portafogli hanno un'esposizione o comunque prevedono un'esposizione del 5-10%. Spesso attuata attraverso gli ETC, questi strumenti che appunto permettono anche di avere come sottostante l'oro fisico. E per effetto dell'impennata del prezzo dell'oro, ora questa esposizione che il modello prevedeva originariamente al 5-10% è aumentata molto. A questo punto, all'inizio dell'anno, di solito i gestori ribilanciano i loro portafogli, cioè vanno a vedere quello che è un'esposizione che magari ritengono troppo elevata e la riducono, e altre invece vengono accentuate. Probabilmente, appunto, dicono i nostri analisti, questo ribilanciamento, dato che l'oro ha cresciuto il suo peso nei portafogli, potrebbe portare a delle vendite di questo metallo, per cui potrebbe esserci una revisione dei prezzi in discesa. È vero, sembra proprio uno scenario attualmente è veramente controcorrente, ma quello che è interessante è la lettura che viene fatta, perché generalmente l'andamento del prezzo dell'oro viene legato alla situazione macroeconomica, alla situazione di inflazione e deflazione. In questo caso invece, con il peso che ha assunto oggi l'oro come strumento di investimento, bisogna guardare anche a questo aspetto qui, cioè alle mosse che avranno i gestori, i grandi investitori su questo metallo prezioso. Allora, adesso con le materie prime vorrei andare a qualche considerazione con Raimondo Marcialis, ma ci metto dentro anche la domanda di Gianni da Varese, a cui auguro buon anno. Gianni, buon 2011, buongiorno. Buongiorno signorina, tanti auguri a lei e a tutto il suo studio e complimenti per la trasmissione. Ci dica tutto Gianni. Ecco, cos'è che volevo dire? Io volevo dire una cosa, no? Se secondo gli esperti è una buona cosa investire negli ETC che investono sull'agricoltura, ETC Agriculture e ETC sul petrolio. Gianni, ma io siccome lei la conosco perché interviene tanto spesso nella nostra trasmissione, anche se dovremmo, come dire, diluirvi un po' di più, ma a noi piacciono le sue domande, la faccio intervenire molto volentieri. So che la sua passione di qualche mese fa era il dollaro australiano, se non mi ricordo male. Ah, ecco, sì. E com'è finita questa passione? Se posso darmi un giudizio anche su questo, io ho investito e mi trovo ben contento di averlo fatto, però in prospettiva come si comporterà il dollaro australiano? Grazie mille signorina. Grazie a lei Gianni, perché so che Pozzi ha delle teorie molto precise su questo, però prima volevo tornare a Raimondo Marcialis. Allora, per chi cerca davvero delle alternative di investimento che siano anche un po' lontane dal proprio, come dire, confine domestico, Gianni, non interessa molto Piazza Affari, poco la borsa europea, ETC sulle materie prime legate soprattutto alle produzioni agricole e ovviamente con questa domanda cinese che è incessante di tutte le economie emergenti che stanno crescendo a dismisura e non si sono fermate, al limite sono scese per un attimo al di sotto delle due cifre di PIL, ma insomma sempre per crescere nella misura dell'8-9%, mi riferisco all'India e ad altre zone. Marcialis, se le sembrano delle buone indicazioni di investimento quelle adottate dal nostro ascoltatore, in prospettiva ovviamente? Ma a me personalmente non piacciono particolarmente, perché io sono comunque un investitore o un gestore che tende ad essere prudente, quindi io non sono particolarmente favorevole all'investimento delle commodity, che ritengo che in questo momento abbiano dei prezzi eccessivamente alti. Sono eccessivamente alti perché non penso che ci sia questo rischio deflattivo, o i prezzi lo scontano completamente e non ci sia quindi un grandissimo sviluppo per questi mercati, ma soprattutto perché il mio timore è che possano contrarsi violentemente, no? E quindi in realtà generare delle cadute che possono essere molto preoccupanti. Io preferisco di gran lunga investire in titoli azionari tra virgolette di buona qualità, cioè sono convinto che in questo momento valga la pena non di andare a cercare delle cose esotiche che vedo come rischiose, ma investire in delle buone azioni. Ecco, qual è la buona qualità? Ci dia appunto due o tre suggerimenti. Molto breve, molto generale, no? Ad esempio io sono favorevole a sovrappesare il mercato americano, e del mercato americano mi piace in particolare l'investimento nelle piccole e medie aziende, no? Cioè quelle aziende che sono molto veloci a ristrutturarsi, a muoversi, a cercare nuovi mercati. Quindi così magari più che al Dow Jones andiamo a guardare un po' al Russell 2000, mi sembra. Assolutamente, ecco, sì, io lo preferisco di gran lunga. Cioè le piccole aziende se la cavano sempre meglio nelle fasi di crisi, e in quel paese non sono rischiosi come ad esempio in Italia, perché sono poco liquidi, no? Quindi non ci sono problemi borsistici particolari. In Europa io credo che valga ancora la pena di investire soprattutto sulle aziende più solide, e credo che valga la pena di investire in Germania e come settori guardare ancora con grande attenzione agli industriali, ai chimici. Eventualmente se si vogliono fare delle puntate sulle materie prime, forse si può fare con le azioni che lavorano sui material. In questo momento capisco che la crescita degli emergenti sia straordinaria, però io preferisco essere prudente sugli emergenti e quindi non sono particolarmente favorevole. Attirato da quest'ambito. Allora, io saluto Fabio, che è un ascoltatore che ci ha scritto tantissimo stamattina al 349-238-6666, che mi segnala: Deborah, guarda che sono arrivati gli indici ed effettivamente anche sulla mia piattaforma in questo momento vedo puntuale l'aggiornamento del FTSE MIB a Piazza Affari, più 1,80%, 12,50%. Quindi si sta muovendo esattamente in linea con gli altri indici europei. Parigi più 2, Francoforte più 1,45, si è ripristinata completamente la situazione di Milano. Per fortuna, ci abbiamo messo qualche ora, ma è stata una mattinata un po' convulsa. Due domande prima di salutarci ancora ai nostri altri due ospiti, a cui chiedo di essere rapidi. Giovanni Pozzi: avremmo dovuto parlare di tutto il mondo in termini di valute, coglierò l'occasione di un'altra trasmissione sicuramente con lei, ma ci dica un po' di questo dollaro australiano, perché so che lei pensa che quella è un'area a rischio bolla. Pozzi, è vero, ha tutte le caratteristiche per esserlo, ma se, come devo fare, mi voglio sbilanciare e dare una risposta al nostro amico, dico che le posizioni lunghe in dollaro australiano vanno tenute, e prendendo in prestito il termine lavorare per scenari, essere pronti, capire che si è in una situazione da potenziale bolla ed essere pronti a uscire quando c'è qualche segnale, e poi lì sta al singolo che tipo di analisi fa e da chi viene supportato per farlo. Ovviamente noi siamo in tempo reale sul cambio. Un'altra curiosità, perché dico bolla? Noi parliamo, perché abbiamo un portafoglio multimanager, una sorta di fondo di fondi, con i più grossi e migliori gestori FX al mondo. Ecco, c'è uno sbilanciamento notevole a favore del dollaro australiano, e i gestori FX sono solo una fotografia di quello che accade poi come asset allocation agli altri investitori. Quindi come tutte le posizioni sbilanciate, se questa comincia a ribilanciarsi si sentirà l'effetto. Esatto, come ha detto Raimondo è corretto dire che si possono avere delle correzioni anche brusche, però detto questo, sino che lo scenario non cambia è inutile fare l'orso cocciuto in questo caso, e quindi l'oro australiano ha delle caratteristiche fondamentali che lo supportano: tante materie prime, la vicinanza con un'area geografica che sta crescendo molto. Una curiosità, molti stanno guardando al trade di valore relativo, come si dice, relative value, tra Australia e Canada, perché si pensa che il dollaro canadese debba beneficiare delle stesse caratteristiche di essere molto ricco in materie prime e geograficamente non distante dall'area Asia, però per qualche motivo è rimasto, si è apprezzato molto meno quest'anno. Il motivo principale sono i tassi più bassi, che non hanno attratto la parte di fixed income. Sono sicura che adesso Gianni... In uno scenario di correzione potrebbe essere un modo di giocarlo rimanendo favorevoli all'area materie prime e sviluppo dei paesi emergenti, cioè uscendo dall'Australia e entrando nel Canada. Insomma, una risposta molto breve, un'indicazione molto chiara di ovviamente tenere in considerazione 2000 parametri prima di fare un investimento, soprattutto sul mercato valutario, perché non si sceglie solo la valuta ma si scelgono anche magari l'andamento delle economie circostanti e tanti altri aspetti. L'ultima domanda che voglio fare a Sara Silano, un minuto non di più, Sara, cortesemente, perché molti ascoltatori ci chiedono, preoccupati di quello che potrebbe accadere al proprio mutuo, che cosa indicano i gestori che avete interpellato in dicembre relativamente alla politica monetaria della BCE per quest'anno, perché lo scorso anno pensavano che rimanesse così espansiva almeno solo per il 2010, invece in molti so che ritengono che almeno per tutto il 2011 i tassi potranno rimanere su questi livelli. Sì, le previsioni sul mercato obbligazionario, in particolare sulle mosse della BCE, non sono univoche. I nostri gestori spesso nei sondaggi lo mettono in luce. Secondo alcuni i tassi rimarranno bassi ancora per molti mesi, secondo altri ci sarà una normalizzazione e questa potrebbe avvenire quanto prima del previsto comunque. Una normalizzazione che cosa vuol dire? Cominciare pian piano a risalire con uno 0,25% ogni tot mesi? Sì, un leggero rialzo verso valori che sono più normali, appunto. Però qui il discorso è che da un lato bisognerà vedere che cosa farà l'economia, se si consolideranno i segnali di ripresa, e dall'altro lato bisognerà vedere questo rischio di debito sovrano nel futuro, quanto ancora continuerà a pesare. L'inflazione dovrebbe rimanere sotto controllo, ma certo che se il petrolio riprende a volare, come vedo che sta facendo molto volentieri, anche lì non è detto che pure quel segnalino d'allarme dovrà essere di nuovo rimonitorato dalla Banca Centrale Europea. Io vi ringrazio, fermatevi ancora un istante, vi faccio sentire la nostra rubrica previdenziale, le parole della previdenza in collaborazione con l'INPS. La parola di oggi, anzi il concetto di oggi, è lavoratori con contribuzione mista. Un lavoratore iscritto alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, che sia in possesso di periodi di contribuzione accreditata in altre gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria, fondo lavoratori dipendenti, gestione artigiani, gestione commercianti, eccetera, per un totale di 40 anni di contribuzione, può accedere alla pensione dal primo giorno successivo allo scadere dei previsti 18 mesi, a partire dalla data di conseguimento del requisito contributivo, come previsto per la generalità dei lavoratori autonomi. Salvadanaio, prima puntata dell'anno, termina qui. Io ringrazio molto per essere stati con noi Sara Silano di Morningstar, Raimondo Marciali, CMC Gestioni, Giovanni Pozzi, JV Partners. Noi ci risentiamo tra poco di nuovo nel giornale radio e naturalmente di nuovo domani con Salvadanaio. Da Deborah Rosciani, buon anno a tutti e buona giornata.